Napoli, Napoli a spasso. Ti avevo detto dal primo appuntamento e non brutta nessuna pensa a te. Invece mono frate, na solo non pote, sola non stai una volta, a cinque sembra a tre. E mai promesso, domani chi lo sa, vengo io soltanto, soltanto con mamma. Io, mamma, te tu, passeggiamo per tu led, noi annanza e mamma t'arreda. Io, mamma, te tu, sembra pies così pazze, che stavano pure viaggi e nozze. Io amo cinema a ballà, si cerca a me di squaglia, con menù carabiniere che le vena ci afferrà. Ma innamorato, sono rassegnato, non reagisco più. Io, mamma, te tu, io, mamma, te tu. Ma San Gennaro m'aveva fatta grazia, l'altra mattina nulla fatta alzà. Tenevo gli occhi freve, pareva che schiattava, e io quasi mi credevo di uscire solo con te. Non file voce, però trovai mamma, dalla bambina mi faccia accompagna. Io sore te tu, amo barrucchia d'amone, o cuppette, o co spumone, che le cago sti più. Per ricordi sta giornata, di Davide ci hanno fatta foto. Vuo pallone, vuo babà, non si fide gamma na guarda, e se guardo male sto pensando ci amana. Tu mi inguaiate, mi sposanate, non mi vedo più. Mamma da sore de tu, mamma da sore de tu. Siamo cinema a ballà, si cerca a me di squaglia, con menù carabiniere che le vena ci afferrà. Ma innamorato, sono rassegnato, non mi vedo più. Mamma da sore de tu, padre da sore de tu, frate da sore de tu. Mamma da padre da sore da zia da nonna da frate da sore da zia da nonna da padre da frate da frate da sore da zia da nonna da padre da frate da sore da mamma da iada venna, iada venna.